chiedo il padre Michel Thomas di venire. Padre Michel Thomas è un americano ed ha oggi un compito molto importante all'istituto, al segretariato dei non cristiani, dove lavora da più di 10 anni, specializzato soprattutto per quello che è il mondo musulmano asiatico. Ha passato molta parte della sua vita nell'Indonesia, nelle Filippine e nella Malesia, e quindi è un conoscitore di questo mondo che sembra a noi molto lontano. Egli poi è laureato, ha studiato in Egitto e in Libano per la lingua araba, e a Chicago, professor Rahmani, ed è impegnato in questa conoscenza dell'Islam, che è stato poi nominato, chiamato sia all'Università di Ankara, alla Facoltà di Teologia, per presentare gli aspetti del cristianesimo di oggi, sia ultimamente anche alla Facoltà di Teologia dell'Università di Smirne. Do la parola al carissimo padre. Grazie. Io vorrei parlare oggi sull'Islam in Asia e vedremo qualche somiglianza alla situazione nel Medio Oriente, come hanno parlato Dr. Abdul-Jabbar, ma anche qualche cosa differente. Il primo punto che vorrei discutere un po' è la venuta di Islam in Asia. Io credo che ci sono 3 fattori importanti. Il primo fattore è il commercio marittimo. Ricordiamo che prima dell'avvento di Islam i persiani erano molto impegnati in questo commercio del mare tra India e Cina da una parte e Medio Oriente dall'altra parte. Con la islamizzazione di Persia e anche con lo sviluppo del commercio marittimo degli arabi, loro erano molto coinvolti in questo, soprattutto nel Khalifat l'Abbasi in Baghdad aveva un orientamento verso Asia. Invece prima con gli Umayyad in Damasco era più verso il Mediterraneo. Ma vediamo che questi musulmani mercanti sono andati con le loro navi dal Golfo Arabico o Persiano e sono andati in Sindh, adesso Pakistan, e poi in India, Gujarat, e poi India meridionale, Kerala, poi Tamil Nadu, Sri Lanka e poi in Cina. Nell'anno 850 già c'erano 10.000 musulmani nella città di Canton ucciso. C'era una grande strage dei stranieri in Canton. Tra di loro 10.000 musulmani, già in 850. Allora, in ogni posto, in ogni città del porto in Asia, dove c'erano questo piccolo gruppo dei musulmani, hanno fondato dei centri dell'Islam. Fin d'ora possiamo vedere nell'India meridionale o in Sri Lanka, i musulmani sono questa classe commercianti in tutte le città, vicino sempre i porti. Questo fattore significa che quando i commercianti sono andati in Asia, il viaggio era sempre tra 6 mesi e 2 anni, secondo il tempo. Di solito nel loro posto in India o in Malesia, Birmania, Indonesia o Cina se stesso, si sono sposati con le donne del posto che normalmente sono diventati musulmani, e anche i loro figli erano musulmani. i schiavi o i servi nei business di solito anche sono stati musulmani. Allora in ogni posto c'era questo nucleo musulmano, ma non c'erano molte conversioni dal popolo locale normalmente. Il secondo fattore è quello di conquista militare. Questo è capitato soprattutto in Asia centrale e in India settentrionale, cioè adesso Pakistan e India settentrionale. Vediamo anche nel tempo degli Umayyad, cioè prima dell'anno 800, gli armi del califato Umayyad sono entrati in Asia centrale, nella zona adesso consiste di 5 repubbliche sovietiche, le grandi città Samarkand, Tashkent. In quella zona loro avevano conquistato già prima del 800. Anche la zona di Sindh in Pakistan, gli arabi avevano una conquista molto presto, e nei secoli successivi in India settentrionale, la zona di Punjab, Bihar e Bengal hanno conquistato. Anche qui non c'erano molte conversioni dalla popolazione locale, con le due eccezioni. La prima nello Sindh in Pakistan e anche in India, nello Punjab e in Bengal, tra le classi più basse nel sistema delle caste indiane. Allora, tutti questi fattori, primi fattori, non hanno prodotto molte conversioni dalla gente locale, dalla gente del posto. Il terzo fattore era molto più importante. Questo è le conversioni della gente dalla parte dei missionari. E questo ha dovuto aspettare fino al secolo XIII, perché ricordiamo che c'era una cosa molto importante, questo in 1258, la distruzione della città di Baghdad, perché era il centro islamico veramente del califato, di tutte le università, si può dire, tutte le organizzazioni o istituti dell'Islam. È un fattore che è sviluppato dopo la distruzione di Baghdad, era gli ordini dei Sufi. Questi ordini dei Sufi avevano un gran entusiasmo missionario e comincia nel secolo XIII, questi Sufi hanno accompagnato i commercianti nei loro viaggi, e quando i commercianti lavorano nelle città del porto, i Sufi sono andati ai principi locali e alla popolazione per predicare l'Islam. E vediamo nel secolo tra 1350 e 1550 abbiamo visto questa grande conversione in Birmania, Thailandia, Malesia, Indonesia e le Filippine, solo in 200 anni. Ma loro hanno ricevuto un'interpretazione dell'Islam, soprattutto sufista, dei Sufi, sufistico, dei Sufi. Allora, dopo 1550, possiamo vedere questo Islam tradizionale in Asia. Il processo di islamizzazione in Asia ha cominciato molto lentamente. C'era all'inizio un simbiosi con le religioni tradizionali del posto. Per esempio in Asia centrale, tra i turchi, c'erano sempre elementi della religione dei sciamani, un tipo di potere preternaturale. In India l'influsso dell'induismo era sempre forte, in Asia del sud-est c'era questo panteismo mistico, cosmico, un panteismo della natura, e ha trovato l'idea del corrente del sufismo, Wahdat al-Wujud, si dice, un tipo di un quasi panteismo. Solo Dio veramente esiste e tutte le altre cose sono emanenze dell'esistenza di Dio. Questo era molto accettabile al popolo del posto. Allora vediamo che Islam aveva questa simbiosi con la religione che era nel posto. Questo, per esempio, possiamo vedere nella architettura. Le moschee in Birmania sono veramente, le moschee antiche in Birmania sono veramente molto simili alle pagode dei buddisti. In Malesia e Indonesia le moschee, per esempio, non avevano un minaret, perché sempre hanno chiamato o invitato la gente alla preghiera con un gong, come hanno usato sempre per le riunioni religiose e sociali nei villaggi. Un altro esempio, le tombe dei santi musulmani. Non si può distinguere bene dalle loro tombe e le tombe delle altre religioni. In Birmania, per esempio, ci sono molte shrine, molte poste, santuari, per il santo sufi, si chiama Badreddin Aulia. Lì sempre vanno i musulmani che hanno rispetto per lui come un santo musulmano. Vanno lì anche gli induisti, che loro riguardano Badreddin come un deva minore. I cinesi vanno e loro riguardano come qualcuno nel panteon taoista. Anche i buddisti vanno ai stessi santuari, riguardano questo santo come un nato, un spirito benevolente. Anche questo influsso dei sufi era molto forte in Islam tradizionale in Asia, perché Islam fu portato e predicato dai sufi. I sufi, come sappiamo, hanno un tipo di preghiera molto particolare, si chiama dhikr. Dhikr è una preghiera corta che loro ripetono molte volte per arrivare a una conoscenza della presenza di Dio. Spesso questo dhikr fanno con gli strumenti musicali o fanno un tipo di ballo, e questo era dappertutto in Asia, in Islam asiatico. Come ho detto, l'idea di Wahdat al-Wujud era molto assimilabile alla religione cosmica dell'Asia del sud-est. Ma, e questo è il punto prossimo, c'erano sempre i musulmani in Asia che hanno riguardato queste cose nell'Islam tradizionale come deviazione dell'Islam vero o l'Islam puro. E loro dall'inizio volevano purificare l'Islam da queste innovazioni. Infatti, i primi che hanno lavorato molto per questa riforma era l'ordine dei Sufi Naqshbandi, molto diffuso in Asia, soprattutto in Indonesia e in Cina. la riforma dell'Islam, la prima riforma dell'Islam, fu fatta da questo ordine Sufi, questo dagli anni 1700-1850, ma il movimento che aveva molto più influsso, Dr. Abdul Jabbar ha già parlato, quello dei Wahhabi in Arabia. Perché questo era importante in Asia? Perché Asia è molto lontano da Arabia. Quando gli Wahhabi hanno conquistato una parte di Arabia e per poco tempo anche le città sante di Mecca e Medina, questo è diventato la controversia o il dialogo interno più importante in Arabia. C'erano argomenti pro i Wahhabi, argomenti contro, ma sappiamo che i pellegrini, i haggi da Asia, e Asia sempre aveva un numero degli haggi molto proporzionatamente più grandi di altre parti del mondo islamico. Quando loro sono arrivati in Mecca e Medina, sempre c'erano queste discussioni sul movimento Wahhabi, e hanno portato al ritorno ai loro paesi queste idee Wahhabi. I missionari Wahhabi che sono tornati in India, Pakistan, Bangladesh, erano molto importanti nella riforma dell'Islam. Anche in Indonesia erano sempre gli haggi che hanno portato gli dei Wahhabi. Anche in Thailandia hanno portato. Allora possiamo vedere che questi Wahhabi avevano un'idea di purificare l'Islam da tutti gli elementi che sono entrati nella comunità islamica dopo il tempo di Maometto e le prime generazioni dell'Islam. In Asia questi elementi erano molti. Allora abbiamo visto, soprattutto in quest'ultimo 100 anni, dopo 1850, che la prima questione per i musulmani in Asia in questi ultimi 100 anni è la tensione, spesso una tensione molto creativa, tra i tradizionalisti e i riformatori. E questo ha dato l'impetus allo sviluppo della comunità. Che cosa è il soggetto delle discussioni? Possiamo distinguere tra le due tendenze principali. Per esempio, alle pratiche, i tradizionalisti musulmani in Asia sono molto accomodanti alle pratiche locali, i pellegrinaggi alle tombe, le pratiche dei Sufi. Quando vanno alle tombe, possiamo vedere in Pakistan, in India, Bangladesh, mettono i fiori, il riso, l'incenso, precisamente come possiamo vedere ai santuari induisti. Ma i riformatori vogliono purificare l'Islam da tutte queste innovazioni. Secondo punto, i tradizionalisti guardano la Sharia come un codice fisso, chiuso. I riformatori ne vogliono aprire o allargare lo scopo della Sharia alle nuove situazioni di Islam oggi, principalmente con due principi: il principio di ijtihad, lo sforzo personale di qualcuno che veramente conosce la tradizione bene, e il secondo principio, maslaha, cioè il benessere della comunità. Loro vogliono aprire questo il concetto dell'Islam Un altro punto di discussione, attenzione, l'educazione. I tradizionalisti fino adesso hanno le loro scuole, tradizionalisti. Che tipo di scuole sono? Loro insegnano solo le scienze religiose. Non ci sono gradi, non c'è un curriculum fisso. Quando c'è un ragazzo o i suoi parenti vogliono mandare un ragazzo per studiare l'arabo, che non, l'arabo non è una lingua parlata giornalieri in Asia, e il Corano, loro lo mandano ai chiai, ai imam locali. Loro vivono insieme con questo insegnante islamico. Loro lo aiutano nei campi di riso con gli animali e tutto questo, e poco a poco lui impara con questo uomo. Questo uomo comincia con l'arabo e il Corano, certamente, e poi forse conosce un po' dello fiqh, la giurisprudenza islamica, e dopo 10 anni, 12 anni, lui torna alla sua casa. Ma i riformatori, loro hanno detto che questo tipo di educazione non può competere con le scuole o delle missioni cristiane o con le scuole dello Stato. E loro hanno visto spesso molto più difficile per i musulmani che avevano un'educazione religiosa trovare gli impegni nel governo e nei business, nel mondo di commercio. Allora loro hanno, soprattutto con l'influsso di Muhammad Abdu in questo secolo, un nuovo tipo di scuola religiosa dappertutto in Asia, per dare una fondazione nella fede islamica, ma allo stesso tempo le scienze secolari, si può dire. Allora, fin d'ora in ogni paese di Asia possiamo vedere questi due tipi di educazione. I tradizionalisti riguardano l'Islam come una religione interiore, diretta all'unione personale con Dio. Questo è l'ideale dei Sufi. Invece i riformatori riguardano l'Islam come un programma di vita per coprire tutti gli aspetti della vita umana, per dare un modo di vivere nel mondo economico, sociale, politico, familiare, personale, secondo la volontà di Dio. Possiamo vedere due concezioni dell'Islam abbastanza diverse. Finalmente, l'Islam tradizionale è politicamente abbastanza quietista. I musulmani devono accettare il governo che sia, devono obbedire, ma i riformatori riguardano lo Stato soprattutto come un strumento nella islamizzazione della società. Possiamo vedere già 100 anni fa, quando gli haji, i pellegrini, sono tornati da Mecca, hanno visto che il mondo islamico in genere, ma soprattutto in Asia, era controllato dappertutto dai poteri coloniali europei. C'erano dappertutto, in Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Malaysia sotto gli inglesi, in Indonesia sotto gli olandesi, e nelle Filippine sotto gli spagnoli hanno sono stati cambiati dagli americani. In Iran e Afghanistan era il punto di competizione tra Inghilterra e Russia. Adesso la zona di Asia centrale sotto i russi, la zona dei musulmani in Cina sotto i cinesi. Allora in Thailandia i musulmani vivono sotto il governo buddista thailandese. Allora i musulmani non erano in controllo delle loro città in nessun parte. E loro hanno visto, questi riformisti, che se loro vogliono influire la società o islamizzare la società, hanno dovuto avere controllo del potere politico. Adesso in Asia tutti i musulmani parlano sulla riforma. Ogni giornale, ogni volta che guardiamo la predica di venerdì, tutti parlano sulla riforma nella televisione, nei convegni accademici. La riforma certamente non significa la stessa cosa a qualsiasi persona, e anche i metodi di arrivare a questa riforma. Possiamo vedere due correnti più importanti per questa riforma. Il primo, possiamo dire riscoprire l'élan, riscoprire l'esprit originale del Corano. Il mondo adesso è molto diverso da 1400 anni fa, ma i musulmani, secondo questi riformisti, devono riscoprire nel Corano lo spirito e applicare quello spirito a questo mondo molto cambiato, molto diverso da quello di Maometto e le prime generazioni. La seconda tendenza generale è un tipo di nostalgia per le prime generazioni dell'Islam e riguardare queste prime generazioni come la norma per tutta la storia per la comunità islamica. Allora loro non devono riscoprire lo spirito per applicarlo in un mondo cambiato, ma ricostruire la comunità originale. E questo aspetto, questo corrente della riforma islamica, i giornalisti amano chiamare fondamentalisti. Ma anche nell'ambito di questi due correnti generali possiamo anche vedere altre correnti. Ci sono i modernisti che vogliono accettare e utilizzare tutte le avanze della scienza e tecnologia moderna come i musulmani. Loro non vedono nessun problema per i musulmani accettare tutto questo e utilizzarlo per che cosa? Per il benessere del popolo. Questo è maslaha. 2 minuti, va bene. Anche ci sono in Asia oggi i socialisti, sono musulmani, ma loro vogliono avere la giustizia sociale e loro riguardano una società fondata sui principi socialisti come quella più giusta. In Indonesia, dobbiamo ricordare, fino a 65 aveva il partito comunista secondo nel mondo dopo l'Unione Sovietica, e i membri erano musulmani o praticanti o non praticanti. Anche c'è la riforma tradizionalista. I tradizionalisti, loro sono coscienti che anche queste scuole tradizionali, anche il gruppo tradizionale deve riformarsi o perde tutto l'influsso nella comunità islamica. anche una cosa importante in Asia adesso è la riforma della vita dei gruppi dei Sufi, i mistici. Loro erano sempre molto vicino al popolo normale, al popolo al fondo, al basso, e con le loro attività caritative loro sempre hanno un ruolo importante a giocare nello sviluppo. Questo è molto importante in Pakistan e in Bangladesh, dove gli ordini dei Sufi sono importanti. Finalmente l'ultima corrente della riforma è, si può dire, la riforma interiore, soprattutto col movimento di Tablighi. Loro hanno il principio è questo: fino a quando ogni musulmano si converte e accetta l'Islam in un modo pieno nel suo cuore, è veramente pronto a obbedire Dio in ogni aspetto della sua vita, è inutile parlare sui problemi politici, perché non è possibile avere un vero stato islamico prima quando ci sono musulmani che sono veri musulmani. Allora questo grande movimento missionario dei Tablighi, soprattutto India, Pakistan, Bangladesh, ma anche in Asia del Sud-Est, è un movimento molto importante in Asia adesso. Grazie. Grazie. Prego. Facciamo 10 minuti di pausa.